volte penso cosa stai facendo e chissà se adesso tu mi stai anche pensando. Magari sei con lui e ti stai anche divertendo, o forse sei da sola e mi stai anche ascoltando. E le mie lacrime hanno già graffiato ogni momento che io con te ho vissuto. Da poco tempo già ho pure ritrovato un video che ricorda ormai il nostro passato. Ricordi com'è stata la nostra prima volta? Eri un po' tesa ma insieme a una carezza la mia mano scendeva sulla tua pelle chiara. E niente confondeva l'amore che emanava. Adesso tutto spento, adesso non c'è niente. La luce questa volta se n'è andata veramente. E non venirmi a dire che solo io ho sbagliato, perché ti ho continuato nonostante quel litigio. Ricordi i pomeriggi tutti passati insieme, ricordi quel momento in cui ci volevamo bene. Tua madre che mi convinceva a rimanere a cena, e tu che mi volevi lì per tutta la sera. Ricordi che rimangono ormai nel passato, forse ci ho provato, non ho mai dimenticato quel tuo falso ti amo che non hai mai mantenuto. Guarda la mia mano, questo è il mio saluto. Si riparte, ognuno per la sua strada e sulle sue gambe. E non fare l'offesa, non hai le condizioni, perché sei una bugiarda, non parlarmi di valori. Il mio perdono c'è stato tante volte, ma di stronzate non so quante ne fatte. Ti vedo passeggiare, a volte amoreggiare con uno che forse non riuscirai ad amare. E quando con lui, beh, farai l'amore, sicuramente non avrai lo stesso batticuore. Ricordi che con me tu ti commuovevi, posa il tuo orecchio sul mio petto, mi dicevi. Dopo mi abbracciavi, poi mi sorridevi e ancora mi chiedevi amore è vero che mi ami. E beh, ricordi strani che non valgono più niente e che sicuramente avrei rimosso dalla mente. La vita è strana, la vita a volte è strana. Ti fidi di qualcuno e dopo lei che fa pugnala. Ho incontrato una tua amica, mi ha detto com'è andata, il perché sei ritornata e te ne sei riandata. E che vuoi fare? Come ci vuoi giocare? Mi prendi, mi molli e ci rimango male. E tu sei debole ma non lo fai notare. Litighiamo troppo spesso, ok lasciamo stare. Vorrei tanto abbracciarti, ma è chiaro che fa strano. Dopo quel litigio, beh, noi ci evitiamo. Non sai da quanto tempo io non dico più ti amo. E come va con quel ragazzo? Forse sei single, oppure già stai con un altro. E a dire il vero, ho fatto sesso anche con altre, ma niente di speciale, con te era importante. Ed ecco qua ti ho scritto anche una canzone. Rimane con il tempo, rimane con passione. Magari tra 10 anni ti ricorderai il mio nome, la riascolterai pensando sempre al primo amore. Magari tra 10 anni io sarò un fallito vero. Magari un po' una cosa alla 3 metri sopra il cielo. Magari lui nel film non faceva neanche il rap, però la nostra storia è finita come Bobby e Step. E adesso vai, torna pure dai tuoi amici. Mi stanno anche sul cazzo, meglio che glielo dici. Tu sei bellissima, ti do un in bocca al lupo, un bacio sulle labbra ed ecco il mio saluto.